dubbio, se anche adesso mi ristavano prendendo a 700 euro, a 800 euro, ancora un po' così, una frazione di amatoriale, perché era veramente bello. E non stavo anche per comprare un tanto. Meno male non l'ho comprato, perché comunque non sapevo cosa mai avrei fatto, non so, poi l'avrei messo lì a fare polvere assieme alle patrocchere, che la passione è sempre avuta del così come me, di comprare queste cose qua. Io ho comprato una decina e poi mi sono stufato, anche perché su internet un po' sono bidonari e poi ho lasciato perdere. Ma non dire cose che non so, poi il fatto che mi abbia detto le cose inerenti al ferro, quello alle volte capita, così come al ferro, ad esempio, che c'è tutto zucchero alla fiera con tuo pupillo. Tu ne hai uno di pupillo che è meglio che non lo vediamo. Io pupillo almeno è maestro in gamba. Tu ne hai uno che non lo è tanto. Vabbè, comunque no, mi hai parlato qualche radio all'inizio, è vero, che non conoscevo neanche. Del DAC io non me ne ricordo neanche che me ne hai parlato. Non me lo ricordo. Comunque le valutazioni ne ho avuto uno anche io che è finito a 630 euro. Più le spese sarebbe venuto di più. Io ne ho comprato, sono riuscito a comprarne due, però a me piacciono, ne ho messo uno qua, uno giù. Ed è diverso, dunque è così. Adesso cambiamo discorso perché non c'è da un ben amato cavo. Sono ben consapevole che è una cosa che a me piace e mi dà emozioni positive ed è già qualcosa. Io anche da giù, quando ho il televisore, sono in camera a letto, ho quel testat che mi ha dato, che era il tuo tra l'altro, simile al tuo, perché quello tuo era modificato al Mekegin. Il testo che tu hai da Gianni, simile a quello, non l'ho messo perché era il tuo, quello l'ho messo nel muro del pianto di Campagna. Ne ho comprato un altro uguale, sempre in eccellente condizione, me l'ho messo giù. È una cosa, guarda, in ricezione è veramente splendido, è fantastico, come Royce, come qualche altro, come anche lo è il Sinbad, l'ho detto anche a Claudio l'altro giorno. Guarda, il Sinbad, il DAC, il Royce, il Terza, il C640, che è il 100, qual erano il base giallo e il base verde che tu conosci, il Trivia sono micidiali. Ne ho parlato io e te li ho fatti conoscere io, pure se ti faceva la prima delle ricevute di acquisto su eBay, da quando risale. E ho tenuto ancora qualcosa, se non mi ricordo, c'ho un Fidat, c'ho un paio di Cobra, ancora ne ho di quelli ancora qui. Dentro l'armadio, non lo sa fare, poi non so più niente perché non so più qua. Io prima rifacerò uno solo per l'ufficio e poi il Cobra e ho anche quell'altro che si chiama. Cracco. Il Cracco, ho anche un paio di Cracco, ne ho due di Cracco, poi ho l'XLR, ne ho ancora un po' di queste. Ho l'Igain, un altro Igain, no? Ma ok, da tenere, anche a me piace questa roba. E via così, è andato. Va bene, dai, allora siamo qui già. E ci siamo a Luca. Poi Luca passa la tecchina con il prodotto al velo a Claudio. Tu non hai due radio che ci ha fatto. Lui c'ha l'SDA e l'Executive, tu non ce li hai. No, poi c'è anche io, anche oggi ne ho fatto un viaggio di macchina di pacchi. No, lui c'ha l'attracco, c'ha il tram, capisci? C'ha delle linee particolari, tu non ce li hai, Marco, è inutile che ti vuoi paragonare a lui perché non ce la fai, non sei all'altezza di poter avere delle linee che lui ha, capito? Ma manca solo una Sardegna e lui è a posto. La nuova Sardegna, vabbè, ce l'aveva, va. Rosso, vabbè, il tram bellissimo, il tram, bella ricettazione di tram. Il tram o il Browning Eagle, quello lì, il Browning Eagle 4, il Browning Eagle 5, il Browning Eagle 7, eccetera, eccetera. Non so se così mi hai comprato. Oh, sono quasi oltre 1700 euro quelli. Ce ne sono diversi, no, uno ne ho mi pare, ma non è neanche messo bene. Il tram è fantastico, il tram mi ha preso delle ciurate, ne ho preso anche a 400 euro il tram, la via in Plattamone, MP. È bello solo da vedere meccanicamente, ne hanno fatto due modelli di tram, di quella stata lì che sono grandi quanto 2,940 messi insieme quelli. a un certo livello 23 canali, poi 40 canali. Ne ho dovuto comprare 4 perché il primo non funzionava, il secondo accendeva, il terzo funziona, il quarto è di riserva. Oh, Marco, eccoci, sono per gli tipi di McKay, non so se ne hai preso di McKay, anche quelli che sono stranissimi in modo particolare. Non sono tutti, là, tutti bene, li riconosco tutti bene, perché li ho visti, ne ho avuto, ne ho dato, ne ho venduto via internet, ne ho girato un po', e quello non ne ho venduto più, adesso ne hai un sacco di tutti, niente, praticamente quelli che c'avevo li ho dati poi giro qui e gli altri ce li hai io oramai. Ne avevo una decina, adesso quello che sono arrivato tre, no, di più di una decina, perché ne avevo già venduto, ce ne hai mi pare tre o quattro di quelli che ce l'avevo io, ce li hai tu, e ce ne hai ancora qualcuno, perciò una decina. Dimmi, grazie. No, tu vai a morire, un giorno morto, mi ha detto, no. La prima consiglia, visto che fai che passi a Pesco, passa a Carlo. Mi ritiri un baracchino, no, che problema c'è, ci passo tutti i giorni. Sono andato, ho detto, caro, sono andato a ritirare quel baracchino di Vat. Ah, io là, che io andiamo giù, che ci vuole mansarda, vabbè, sai, e che mi dà una mano però, ma io ho convinto che, non lo conoscevo la verità sto tram, convinto che c'era roba da prendere, altri pizzi, cose varie. E ne toglie questo baule, ma che sarà morto. Un cacciamotto per un bambino di 2 anni, 3 anni. La testa è caduta, non televisione, come faccia la radio Walter? Beh, non butta metterci dietro, non ci sta mai il cofano della Citroen. Lo conosco benissimo. Vabbè, c'è anche Luca qua che mi saluta Walter, tutti quanti, e vado a mangiare un po' qua. Ci sentiamo aria fra un pochino. Ciao. Ciao Marco, ciao. Luca del Monte, riprendi. Adesso che non ci sono io, a te ti racconterò un sacco di cose dolci, caramelle, cioccolatini, cose così, ma che falso, ciao. Questo ricobra che gli sono rimasti, gli sono serviti non per utilizzarli in radio, ma se li ha sparati tutti in vena. Vediamo se c'è Angelino, così facciamo girare la ruota, mettiamo a posto la situazione. Angelino, ci sei? Angelino c'è più, doppio rum, riprendi. Per sgorbio, sono circa 400 quelli che... Dunque, anche Tabuni verrebbe male fare un ritiro. No, sono più di 400 se fai il numero di quelli che stanno arrivando. Vabbè, sono 500 in tutto. Dislocati in vari posti. Vabbè, doppia route. Gianni, è addormentato ti sei? Guarda che serve la metto in casa. Ecco, adesso ogni tanto sparisce. È nata lì. Già sono qui. Cosa vuoi dire? Dovete farti scappare. Siete prepotenti tutti. Hanno visto la litigata con Marco e quindi si sono spaventati e se ne sono fuggiti. No, io conosco Walter con Marco, mi ricordo i vecchi tempi, però chiaramente le competizioni sono competizioni. C'è da fare, c'è da aprire un libro, Walter e Walter, Marco e Marco, cioè c'hanno due opportunità diverse di concepire la radio e di fare la radio, e quindi non c'è niente da fare, andare lì. E ma si tornano in una maniera scomposa, due volte di sotto, è sempre diverso. Dipende, io ce l'ho via, no, loro parlano, chiacchierano, esprimono il loro parere. E quindi mi ricordo i vecchi tempi, mi ricordo, capito? Quando Vittorio attaccava a Walter, era sotto al letto, girava con la manopola del bulldozer. Sì. Quindi c'è un bello, quello vabbè era troppo scarso, però. Che era tecnico, ogni tanto si inventava delle cose. Ma è un po' più paragnoso. Velenoso. Aspetta che mi stanno chiamando sulla chat, allora ci arrammizziamo un poco. Ma ne ha fatto Samuele su, a te l'immagine a sgorbio. A dopo. velenoso. Carissimo. Luca, attento, Luca del Monte, Luca di Montezemolo. Tu sì che ce li hai quattrini, a tutte le Ferrari che hai. Ma non avevano visto che stavano pulizzando tutti, veramente, allora posso voltare, sono fatti, erano risultati. Scintilleo, yeah, scintilleo. Se dobbiamo parlare, già parliamo, se dobbiamo uscire bene, usciamo bene. No, mi dispiace Gianni, che ci siano c'è parte del Ferrari, e poi tutte e due assieme mi sembra un po' strano, eh. Vorrei capire, perché una magari posso capire, esce peggio dell'altra o meglio dell'altra, ma tutte e due assieme, Gianni. Sono qua. Allora se ti dico, io non stavo io, scusate, se avrà toccato qualcosa. Ma non credo, no. Qualcosa è toccato già facendo magari misurazioni microfoniche. No, ragazzi. A me dove vedo. E poi vuoi vedere naturali, scusate, non è tutti che gli sono nazionale critico. Perché mandava per il passo al caldo per la tecnologia e sei andato. E lo metti al massimo, magari anche il gruppo non va a sede. Ha provato. Proprio incomprensibile, già hai sentito. Segnale fortissimo, il segnale era al massimo qua. Però la radio molto molto incomprensibile, praticamente non si capiva niente, sia col microfono normale che con anche con l'altro amplificato, non lo so. Angelino. Luca. Luca l'ha lasciato a mangiare. Vabbè. Riprendi già, vai. Come sta la schiena? Per carità, tutti la tutti lì, non ho mai... Non potresti iniziare, scusa un attimo, Natalie. Ma il computer già lo metti vicino alla radio, sì. Vicino alla radio il computer, perché? No, per farmi il calcolo della distanza. Vicino vicino non è, Ah, io misuravo che mi serve la lunghezza. E fa 2 metri di vino. Dai, la cassa, il case sarà 1 metro di distanza, là. 1,5 metri, non ti dico. Lo sai quell'affare che stanno facendo? Non si può fare. E cosa? Quell'affare tra computer e bar. Non penso si possa fare. Vabbè no, per noi non è un problema. Il problema è per chi ha inserito le colic. Stavo leggendo un sito, praticamente se riservano al server è un casino. E anche da io, cosa vuoi dire? Oh, vabbè che a Catania con il valice astro, eh. Hanno morto un uomo, hanno distrutto la città e adesso se ne assumono le conseguenze. Vabbè. Oh, Franco! Dimmi! Quanti cacchio di metri è quel cavo per il telefono? Boh, non lo so, picciò. È corto. Arriva sino a... quindi dal salone, da dentro la dispensa, poi esce e mi arriva a metà dell'ingresso del computer. Ma non si può aggiungere? Sì, già si può aggiungere. Non è che crea problemi poi la presa, no? Per la DSL. No, negativo. E io un paio di metri ce ne manca. 2 metri, 3 metri. 2, 3 metri. Vabbè, speriamo non mi dicano niente, perché gli ho telefonato e ho detto praticamente sono quasi pronto. Ho detto lì al momento in cui ha la presa sotto il computer ci chiami, noi 10 minuti abbiamo fatto tutto. In giro di un quarto d'ora lì c'è la linea DSL. Sì, ma tu sei partito dalla presa, così tu hai messo la presa che... la presa tripolare sotto il computer e poi sei partito verso il salone. Ah beh certo, così mi collego direttamente all'altro filo che esce dal muro. Ok, quindi bisogna prenderne una perché lì tu c'è la presa tripolare e vai in salone. Dici, guarda qua che hai mandato tu. Quella che hai mandato tu l'ho già attaccata al muro ed è sotto il computer, già pronta, perché la vogliono attaccata lì. Poi sono partito col cavo, però arrivo a metà. Praticamente arrivo sino alla dispensa e poi ci vuole l'altro pezzo che esce dal muro un paio di metri. No, perché lì poi devi arrivare lì e devi mettere una presa tripolare e tu devi infilarti dentro la borchia che c'è in salone, no? Sì, ma nel salone c'è già la presa del telefono, capito? Quindi io l'attacco quella e mi collego lì. Eia, ma non è che la devi smontare, capito? Ti serve un'altra presa per infilare, una femmina ti serve. Esatto. No, la presa la devo lasciare, che mi danno il telefono lo metto lì. E mica me lo metto qua nel computer il telefono. Mi danno anche il telefono col numero e tutto, direttamente ad attaccare la presa. Quindi ci vuole una presa per il computer e un'altra presa per il telefono. Ho capito. Va bene. Così, giusto per farti capire, perché loro, la DSL, il cavo della DSL, c'ha quelle prese piccoline, quelle spinette piccoline, si attacca a quella lì, e poi c'è la presa direttamente maschio del telefono che entra dentro la presa femmina. Sì. Vabbè, non c'è problema, che si fa? Sì, non ne ho fretta, ma frega niente. Ho 4 anni con GPRS, posso stare anche un altro mese, non c'è problema. Ok, no più a lungo. Natale. E vado dove? Sto ascoltando, sono qua. Sto guardando cosa ha fatto la chat, sto parlando, cosa ho preso all'arco. Non è che tu c'hai il cavo di telefono lungo, no? Sì. Me l'ho immaginato, con l'impianto che hai fatto là. È perché quello che ho mandato Franco è corto. E vogliono la linea qua sul computer. Un paio di metri me ne mancano per non aggiungerlo. Allora, questi che mi ha dato Franco sono... sì, 8 metri. Quindi basterebbe la 10-12 metri, se ce li hai. Dovrei avere. Ehi, l'ha pagato. Vabbè, tanto non ne ho fretta. Cioè, fretta già ce l'ho là, perché voglio terminare anche questo cacchio di lavoro, voglio c'ho anche il telefono, tutto. Vabbè, dai, ci sentiamo. Attacco, ti stavo dicendo. Poco fa, sì, in banda laterale, fortissima. Lascialo il processore, intanto non cambia niente. È molto più squillante la modulazione. Prego? Io lo so, io l'ho attaccato, l'ho attaccato per farmi sentire più chiaro, era per farmi sentire più chiaro. No, Natale, esce chiaro, senza, e ancora più chiaro col processore. Perfetta, proprio alla grande, senza nessun problema. No, questa le ha fatto un allineamento pauroso, caso. va di lusso. L'altro giorno la stavo provando in banda laterale sui canali alti è una bomba. Chi è che vuole entrare? Daniele, tu sì. K, saluto a tutti, cordialità, buonasera. Ah, ma hai scaricato la città mercato, a casa te l'hai portato? A casa me l'ho portata, clà. Porca miseria. C'è un autista loro, errato. Un autista loro, veramente un collaboratore di lusso. Tutta la sera lì aspettando il suo turno a città mercato per scaricare. Intanto, sai che mi sono andato via, ragazzi, alle 3:30. Beh, bravo Daniele, città mercato è un'altra balla, vale, è un incubo per tutti. Cazzo, già poco l'ha premesso quel po', io quando volevo le bolle ero con Nido, e volevo le bolle città mercato, mamma mia il casino che piazzavo, no, tieni lì, non è buio, vai, allora vai a Olbia, dammi le bolle di Olbia, vado a Olbia, ma io a città mercato non ci vado. Non lo so, il ballo. Spesso non correggo. Vabbè, pazienza ci vuole, dai, già. Oggi era un'eccezione, sono già una volta alla settimana, già si può fare. Ehi Daniele, te l'ho spiegato, me te l'ha spiegato anche Natalino, l'abbiamo fatto anche noi quel lavoro, quindi purtroppo quel lavoro è un lavoro molto di pazienza, serenità e tranquillità, perché se ti incazzi è peggio, capito? Poi ti si incasina tutta la giornata, invece sai quante volte io andavo anche a Olbia, vedi, alla città mercato di Olbia, è ancora peggio che quella di Sassari, ancora peggio, perché ci sono degli incompetenti proprio al naturale, di quelli come il panno Nostromo, capito? Come il panno Nostromo, sono lì messi per non sapere neanche dove vivere, perché sono proprio abbandonati, non capiscono che un corriere, quando è un corriere espresso, deve avere la priorità assoluta rispetto agli articolati, rispetto a, perché uno è scaricare un articolato, scaricare un semirimorchio eccetera, ma io che ho un plico da consegnare, sono Corriere Espresso DHL, poi tra l'altro perché facevo DHL, tu mi metti in cola aspettare che tu scarichi l'articolato, ma vaffanculo tu la DHL, che cazzo ti hai inventato, ma sai quante volte non ho consegnato a città mercato di Olbia, proprio mettevo la resa e glielo dicevo, non ho consegnato per questo motivo, perché è una vergogna, io sono Corriere Espresso e ho il diritto di consegnarti il plico e andarmene, non devo fare la cola e aspettare la tua comunità che tu scarichi un articolato, mi devi mettere una firma e andarmene, non ti sto troppo portando a mano, ma ti sto parlando di buste, mi, o buste o plico da 0,20, nulla, mi mettevano in cola. Già lo so, Cla, ti trattano come se avessi pedale e 10.000 colli, dai, da scaricarli. Un semirimorchio, un furgone che non aspetta pochi colli dai altri, stanno passare, che stanno si mettono alla rete, chi dove appresta ti dà un cassetto di consegna. Natali, ma la parola stessa ti insegna il modo di lavorare. Se io sono un corriere DHL, sono un corriere espresso, o come le GECO, come la TRAC, o come le CDA, sono dei corrieri espressi, dei corrieri che non è che devono scaricare i bancali, devono scaricare un plico, due plichi, tre plichi, te li porto lì a mano. Questo è, che cos'è? Ecco, leggi, firmi e me ne vado. Che cazzo mi metti in coda? Ma sai le volte che non ho scaricato? Mi incazzavo a morire, mi incazzavo, me lo lasciavo a ultimo, proprio a ultimo, perché lo sapevo, a ultimo, proprio facevo tutto il giro veloce, sempre correndo, le stagine, se ero dentro Olbia, come uscivo all'aeroporto, passavo, andavo con centro, ci metto in coda dietro l'articolato, quello, in coda metto una tua sorella, metto, io me ne sto andando. Perché io bene o male scaricavo e stavo a segno da dirigere di volo di tipo di gittava nella prima via Ruffianari e mi dicevo io che non potevo dire neanche tu e ne ha la seduta alle dinieni là li faceva scaricare, ma andavano a mettersi un gentile lì che andava a chiudere con le bolle, no? Me le facevano vedere e mi cercavano la messa con il terminale lì e mi facevano scaricare, ma subito a Daniele gli ho detto di fare così e non l'hanno fatto entrare a figlio, così mai se ne passare. Quanti plichi ci avevi, Daniele? Oggi vabbè ci avevo una ventina di colli in pratica, ci sono stati due settimane che c'avevo roba di 6 colli, mi hanno trattato come se ne avessi in casa un furgone pieno. Sì, perché il loro motto è lavorare, Daniele, capito? C'è un Corriere Espresso che va lì, che non deve scaricare come un bilico, un articolato, un semirimorchio, un cazzo che le tiri una faccia, un 20-30 pianali di roba, no, capito? Un Corriere Espresso, il massimo che può avere sono 10 colli, quindi è una vergogna che tu vai a infettare tutta la mattina lì per darti 10 colli, dopo che ancora ne devo consegnare altri 80, altri 100, capito? È una vergogna. E siccome mai nessuno si è rifiutato di fare le consegne espresse, allora qualcuno quando si rifiuta cambiano il modo di lavorare, perché non va bene, nel modo più assoluto. Cioè un Corriere Espresso per legge ha diritto di passare davanti agli altri, ma nel modo più assoluto, in tutti i posti, a meno che non sia un negozio normale, quindi vai, è chiaro che c'è la singola, no? Ma quando sono dei grossi supermercati, delle grosse cose, se c'è un articolato che sta scaricando, io mi scelgo la mia roba, vengo lì, te la porto a mano, tu me la accetti e mi mandi via, non è che mi devi far fare la coda assieme agli articolati, perché chiaramente gli articolati sono delle cose a livello grosso, quindi hanno un sistema di lavoro diverso da quello. Sempre così. Qua è allucinante. Oh, ma lo sai che adesso ho detto consegna singola. Se vuoi scaricare, per dire, un collo in un negozio nella galleria di Auchan, c'è l'orario dalle 9 alle 10, dopodiché non ti fanno più entrare. Daniele, è normale. Cioè, come il medico c'è dalle 5 alle 7 il mio. Se io vado alle 7 e 5 mi mandano a fanculo. È normale, Daniele. Rispetto per rispetto. Tu sai che hai una consegna ad Auchan e che quindi dentro la galleria, nei vari negozi che ci sono, tu devi consegnare da quell'ora a quell'ora, ti organizzi e consegni a quell'ora a quell'ora e poi prosegui il giro, questo è normale, ma io sto parlando dell'altro, cioè che vado a città mercato, al magazzino centrale e c'è un articolato che sta scaricando 300 quintali di merce e io devo aspettare che tu scarichi l'articolato per ricevere 10 colli, cazzo, è una vergogna. Sì, quella è una vergogna, sì, lì ti do ragione. Guarda, poi lavora in un modo strano, a replay fanno le cose, tutti lenti, boh, per carità. Guarda, è un modo di lavorare, Natalino lo sa, l'abbiamo già fatto, quel tipo di lavoro, io l'ho fatto molto prima di Natalino, ti posso dire che non ha cambiato niente, perché i miei ex colleghi continuano a lamentarsi tra il città-mercato, la piazzetta, i vari punti, i grandi magazzini, diciamo, sono tutti uguali, perché se tu, io mi ricordo quando facevo Macomer, che allora caricavo la Vinci, non so se a Natalino gli è mai capitato, era la stessa cosa, uguale, come ti vedevano entrare, lì quanti colli c'ha? 3 colli, si mette dietro, cazzo, per 3 colli devo aspettare qua, e poi io, per favore, cioè devo fare Bose, devo fare tutto Macomer, devo andare a Sindia, devo andare a Scalo Montiferro, devo andare a Cuglieri, ma cioè ti pare che io devo stare tutta la mattina qua per darti 3 colli? Era bravo, cioè firmamelo, controllali, aprili, pesali, fai il cazzo che vuoi, ma mandami via. Beh, dovevo pregarli tutte le volte, cazzo, per mandarmi via, era una vergogna. Oh, iaia, è una vergogna, sì, cazzo, ti fanno perdere, cioè una giornata solo per loro alla fine. Lo so, mai ci sia andato Natale da Vinci. No, non me lo ricordo, che magari già mi sarà capitato, però di città mercato sta tranquillo che andavo e scaricavo io, di brutto. Cazzavanni là, d'origine, non fa entrare nessuno, ma capire, ma più conto. Perché io andavo, mi facevo cercare la merce col terminale, no, subito. Cosa devo dire? In mezz'ora caricavo tutto subito, lo sai, anche che c'era la roba. E mi mandavano via, ma c'erano quei poveracci, cazzo, gli articolati, tutto il giorno fermi lì, cazzo, chi dovia negarsi a caricare se mi rimorchi anche io, Gesù Cristo mio, cazzo. E lì c'è quello dei supermercati di Macomer, no? Quello che avevano sequestrato, adesso mi pare sia abbia venduto a Pellicano. Supermercati Vinci, proprio a Macomer, poi c'era Bosa, da un sacco di parti. Pellicano è diventato, Cla. Sì, l'ho sentito alla televisione, ho venuto a Pellicano, poi tra l'altro è successo anche casino, beh, comunque quello che abbiamo sequestrato. Oh mio Dio, doppio rum. Già. Sono in lutto. Ah, ragazzo, sei in lutto. Ma la parte del lutto è... Ti do il mio, ti do il mio, dai. Buttaci tutto, ti do il mio. Fidati un voi. Claudio, di poche parole. Ah, ho sofferto. C'avevo, ogni volta, mi avevo fatto la fotografia sul digitale quando ho venduto il mio 440, me l'ho appeso al muro, ogni tanto lo piangevo. Molto gesto, molto gesto. Poi me l'ho ricomprato, è arrivato più morto di quello lì. Alla fine è tornato a vita, adesso me lo volo a far culo. Prendi un Rolls, prenditi un Rolls, se vuoi ti do una Saxo, ti piace la Saxo? Non arrivo su dalla Saxo. Come te fa niente? Ti compro un terrazzo che ti risassi. C'è la mia, è già troppo. Non fare così, Gianni, che mi stai mettendo l'ansia, il malumore, boh. Deve essere qualche cosa di capo, sicuramente. Ti porto un voce questi giorni quando quello da niente, così ti bando l'altro in testa. Gianni, non vuoi una bella radio? Prenditi il Simba. Tu vedrai che col Simba fai ballare la samba a tutti. Ma questa è bella la radio, non c'è niente da... Non vuoi che manca restaurante. Ah, facciamo una cazzata, dai, magari qualche accorgimento fatto male, dai. La ritroviamo con calma, bene. Mi dici, ti dico, allora togli quel microfono, metti questo, già ne hai il microfono. E cerchiamo di stabilire un po', magari qualcosa del genere, dai. Perché noto proprio la radio incomprensibile proprio sull'effetto di modulazione, capito? Non lo so cosa può essere successo, ma dico una, cazzo, una, anche l'altra. Ma sulle prime già era comprensibile, poi ha cominciato a dare la tappeta. Secondo me era il microfono. Ma ne hai provato due, quanto ne hai provato già? Due, una normale e una modifica. No, allora ti ricordo, te l'ho già detto una volta quando, ti ricordo, avevamo fatto la prova col Magno. In banda laterale scordati quel tipo di microfono che stai usando adesso, scordatelo, non va bene, nel modo più assoluto, quello va bene in AM, alla grande, perché è una bellissima radio, ma in banda laterale microfono normale, più normale possibile, perché la banda laterale ha un altro effetto camera diversa, quando ti stai modulando lei spinge e deve essere chiara, pulita, senza nessun problema, quindi microfono più normale possibile, capito? Quello scordatelo. Però il fatto che sul microfono normale c'era lo stesso problema, a quel punto lì, insomma, comincio a preoccuparmi. Ma io sono convinto, se ando io, e se vuoi pure uno, il microfono per amplificato. Natalì, Gianni c'ha una bellissima modulazione, non lo metto in dubbio, perché così io devo dire una cosa, la dico, in AM è perfettissimo in tutto, sia con una radio, con l'altra ancora, le ha provate tutte, cioè le radio a posto in AM. In banda laterale, Natali, non lo so se saresti uscito bene, perché tu c'hai i toni ancora più acuti dei suoi. Era proprio, l'hai sentita la modulazione, che non è che era gracchiante, troppo amplificata, niente, era proprio incomprensibile, quindi proprio il modulatore stava dando qualche anomalia. Ma secondo me lui ha toccato qualcosa lì e non l'ha toccata come doveva toccarla. Capito? Io sono sicuro che la rigoreggiare la radio. E Natali, sembra che stiamo parlando di un 7008 della Icom, cazzo, boh. Va a tre manopoli, quattro manopoli, cioè agire con un baracchino in banda laterale, non è che ci sono molte difficoltà, È facile per noi con queste, immaginati con un baracchino normale, cioè non è che ci siano molte cose da fare, lui agisce col make in e il microfono male basta, non è che c'ha molti tatti da toccare, stacca e tacca. Perché centrato era centrato, aveva ragione Marco. Io poi mi sono spostato, la centratura era a posto. Era proprio questione di modulazione che non c'era. Infatti, toccato qualche cosa sicuramente. Invece non me ne rugava, la rugavo per un microfono, perché non è possibile. Si uscivano bene prima. Non ho toccato niente, nulla. Niente, certo avuto toccato questo. Non ho toccato proprio nulla. E così è buco, c'è poco da fare. Adesso che c'è dopo il microfono normale, si sente. È perfetta la modulazione, è perfetta. Natali, cosa può toccare? Non è venuta a toccare, ragione Gianni. Solo col Machichelli puoi andare. Una volta che la radio è centrata, che il cane sta al centro, non c'è niente da toccare. Cosa? Non tocchiamo niente noi, che sono più sofisticate, e non c'è niente da toccare lì. Lì c'è qualcosa che purtroppo, come la macchina, no? Io l'altra volta sono andato a prendere la macchina a mia moglie, nonostante sia una macchina di un anno e mezzo, nuovissima, girato il quadro, niente. Oggi ti ho fatto, ho detto, ma la macchina, io ho parcheggiato, ho preso la macchina, perfetta, non c'era niente. Beh, sono andato a prenderla io e si è chiuso il motore in avviamento. E vabbè, ma secondo me è più facile con quelle che abbiamo noi, fare chi è più difficile. Io sono quel type, un cazzo di rana adesso andando a pedale. Ma è sempre una macchina, è sempre una macchina, capito? Rendo l'idea, è sempre una macchina, no? Che sia un baracchino, che sia un mezzo di trasporto, è sempre una macchina operativa. Quindi può succedere un'anomalia da un momento all'altro. Però dico un'anomalia, in questo caso Gianni ne ha due anomalie, sia con l'MS200 che con l'Univent. E quindi, cioè, sia la Fayette che l'Univent sono andate contemporaneamente tutte e due in avaria, non ci voglio credere. Cazzo, una sfiga totale. Dopo il room, lo sai chi è che ti ha messo la cornacchia? Quella è la cornacchia, te l'ho detto, ci vuole lo sparviero lì invece del merlo. Ci vuole lo sparviero lì, che se la mangia la cornacchia. Attento, ma Giuseppino, no, Angelino. Adesso mi ricordo Giuseppino Trattore di Sorso, che non abbiamo mai nominato. Ehi, oggi l'ho visto anche, l'ho visto un giorno, l'ho visto, è diventato molto molto vecchio, ti aspetta, ogni volta che va via. Tu immaginati quando io passavo in via Roma, lui abitava in via Roma, a Sorso, lo sentivo della strada modulando dentro casa. Barbiero, Giuseppino Trattore al giorno! Non c'è più adesso, no? No, no, 5.25 che c'è? Sì, ci sono sempre me, Antonio, QQA. Ah, è già lui, sto ascoltando. QQA, Antonio, c'è io. Gianni, ma è malattia, sì? Sì, sì. Quando rientri, mamma? Dove vi prossimo? Sì, io. Questa lunga malattia, raga. Mamma mia. E quante volte ti hanno chiamato già? 10? No. Niente. Nulla. E controlli? No, non c'è problema. Ma se a me non c'è problemi, Claudio, c'è il fuori, c'è il certificato. Ehi, ehi, mamma mia. Chissà quando rientri il casino che c'è. Il casino. Lo faccio, mi arriva anche lui su domani già. Guarda lui. Sì. Due su, ma in arrivo, non riesco. Uno sicuramente è bruciato. Gli altri due sono recenti, però uno non arriverà più da novembre. Come mai? Adesso, bruciato. Microfono tutto, non è arrivato niente. Carità. Ho registrato mi hai qualcosa, vabbè devo venire lì. Non lo so, problemi, ti dirò. Problemi alla grande. Non sono uscito di casa, niente. Gappa gappa. Uiuiui. Daniele. Chi è? Ah sì, cosa qua c'è? No, a casa sono, Cla. Dai, dimmi a Gianni come va il Russo. Di Russo, va troppo bene. Se lo conosce Gianni. L'altro giorno me l'ha chiesto se lo vendevo. Basta. Non è così, già. Ma questo non si tocca. Prendere trovare il microfono per ficcato. Funziona bene col tarmel, non col tarmel, con l'olio di qua. KK. Si può procurare, Walter? Sì, ma se poi ce ne trovano in quattro qua, ce ne saranno in giro. Claro, bisogna dire. K, aspetta, piano piano già. Già la faccio bellina la stazione, dai. Devi mettere l'antenna, che cosa? Certo, se pensava l'ampla e noi non ci sono riuscito. Non so mettere la mai. Non sono riuscito a mettere i cagliari perché avevo troppo grasso di vaselina, ci volavo, ho preso la sua balla e ho mollato tutto, l'ho lasciata sul tetto la metà. Ti sei arreso alla fine. Perché non so. Era una fatica. KK, ma quella roba me la procuri, Walter? Se lo già, non sono in campagna, guarda come c'è un attimo di calma, andiamo. KK. Mi prendi Gianni? Gianni è sparito. Non è marito, è andato a prendere una cosa. Ciao Marcolino. Ciao Marcolino. Un attimo di bianco, rientro subito. Scusate che la telefono con un collega, chiamatemi ora. Sì, è vero, era Gianni, cercando. Ah? Gianni, ci sono sempre chiamando, Daniele. Dimmi già. Lascialo qui. Non ti ricordo più. Adesso non mi fa tutti. Come no? Ciao, saluto le circolari anche. Sono 10 minuti che va sotto, e ogni tanto sparito. Fino a. No, ce l'ha scritto, grazie. Già va bene, ok? Già va bene. Penso che mi state ascoltando bene, quindi non è un. Salutoni, Claudio, Walter, Gianni, ho canto sentita Natalino, ma e non so se ci sia qualcun altro in vuoto. A te ho Claudio. C'è Gianni, Walter in Quirix, Daniele e Natalino, sì. Avanti Natalino. Ciao, Claudio. Ciao, buonasera. Ciao. Non so quante ne posso secondare, ma va bene, credo. ti ascolto così bene, poc'anzi avevo un rumore esterno e non sono entrato. Adesso il QRM si può dire quasi a zero, li ascolto perfettamente. Ciao Pina, buonasera. Claudio, ciao Dante, ma qua l'ho sentito nel sottofondo un buonasera. Faccio entrare io avanti con la buonasera, finanzio l'Alghero, in compagnia della ruota di sette. Di Portogalli, Claudio, non scusi, Portogalli. Cosa? Una voce di Portogalli, Portogalli Marini. E chi è Portogalli? Portogalli è un paese, in provincia lui, per me, passo basso. Cazzo, da Portogalli a Portogallo. Cazzo, va a piscio, cazzo. Portogallo, cosa cazzo Portogalli? Se non ci fosse Pinangelo mi renderei la radio. Pina, buonasera, stavo salendo e mi hai fatto bruciare le mani. A piscio ti devono fare, Pina, la bagassa tua, cazzo. Che ti sto dicendo, guarda? Qua ascolto basso, l'ho capito, Portogalli, cazzo. Là, se non ci sei tu mi vado alla radio. Tanto quello in mezzo ti dice Portogallo e tu dici Portogalli, cazzo. Ma vino ne hai, Portogallo. Ha detto Pinangelo se c'hai il vino, a Eglia. Da Perù, ma come ci fa, cazzo, a non parlare con Pinangelo di Alghero? Portogalli, che te vecchia, cazzo. Cazzo, grazie, sono Portogallo. Hai sentito, però. Portogalli, Portogalli, e come lo sentivo al basso, in mezzo a uno stacco che avete fatto voi, no? Lui ha detto, Portogalli, Portogalli, Portogallo, Portogallo, cazzo, è vero, cazzo. Comunque mi arrivava al basso, infatti è per quello che non ho capito più di tanto. Attento, Portogalli, buccio brillante. A piscio, cazzo, te devono fare a te, cazzo. Cisci, cosa? Madre di Dio, cazzo. Piccina, se non è, no, pari è una aperta per me, no. Altrimenti, guarda cosa Portogalli ha visto. Cazzo, Portogalli è aperta per te, no? Gianni, buh. Cazzo, ma com'è il Portogalli verso la provincia in uno? E ci parlo per fuori aperto per me come zona Claudio. La canna che ti si apre, Pina. Ma Pinangelo è che non parla l'algherese molto, molto stretto, parla più sassarese, sennò il Portogallo, gli algheresi, quelli stretti stretti, il catalano lo capiscono bene. Catalano sì, però lo spagnolo, il Portogallo è tutto diverso, in lingua. E qua addirittura catalano no, c'è rimasto qualcosa di antico, il catalano che parlano in Catalogna è un po' andato a tipo, no? Hanno fatto un convegno qua. E se c'è un cantiano dice no, il vostro sarebbe il catalano, no? Rimane ancora più antico di quel moderno, non so. Sì, ma appena a questo convegno se c'era il catalano no, e tu le metti il catalano sì, è un casino poi. Sì, non la sai, meglio stare nella via di Renzo. Attento, attento, appunto, da qui, il nodo Sardegna. Guarda, Pina, secondo me se ti metti gli occhiali riesci a parlarlo meglio. Cazzo, Pina, va, mi riposo, mi cazzo, mi riposo. grazie, scusi Miracoli, grazie Claudio. Vai che fai il fuggitorio là, ma va. È forte che... Ah, va, usiamo. E non mi te calma le ombre che sbagli il pulche sola del Mengo. Accento il Portogallo del Fuggitorio di Sardegna. Se più di ex che brecco, brecco, brecco. Che è Fuscia, eh? Ah, ti ha detto che non ha campito una cieca. E sapeva che fosse bello. Se fosse italiano. Sì, ti ascolto, ti ascolto. E viene avanti, buonasera, qua la stazione è Tartagnà, che modula dalla... Tartagnà. Nord del Sardegna. Della Careggio. Ascolta, al Paolo di non scatalarsi, interrogativo? Ammazza attenzione qua, attento Lisbona, Lisbona per il Sassari, Sassari, l'isola della Sardegna, Lucio Brigat. Casa. Le lacrime ciocche. Ma va la prendono ai giardini. Poi io sto con il mio collega De Sassari, che commentiamo scultura e con tutti i amigos, e che c'è la stazione Tartagnà, Pinangelo, che mi fa cagare dal river, ogni due, quando la sento mi fa morire. Ok, dove stai? In Lisboa? Ah, questa è Lisboa, bella, bella città, la conosco. Va bene, come ti diciamo. Ponte muy grande, ponte muy grande, ora non mi ricordo come si chiama, Belém, Belém, muy bien. Tappeti. Siamo pure lì, eh? E se proprio mai si sta lì, non si sta lì, non si lascia nessuno che si pare, qualsiasi. A questo è la tiene molto l'italiano, che deve parlare contigo, che deve parlare contigo. Ce ne sta uno anche del Bortigali che ti vuole parlare. Ok, molto obrigado, ci sentiamo la prossima volta, Macalus. Un saluto a Lisboa, bella, bella città, sull'Oceano Atlantico, molto, molto bene. Attento. Attento mi armato della scucciata della Sardegna, la città di Sassari che te va chiamando. Attento mi armato di Lisbona. E questo italiano tiene una radio in Pechigna. Si chiama Gianni, doppio rum, un momentito, dai Gianni. Gente, io ti sento molto bene, molto bene. Molto bene. Quattro litro, ho prendito per favore. ti ringrazio, vai, vai. Buona strada. Buona strada. Non è la tua prima strada. Buona strada. Ah, conosce l'hotel Don Pedro, Barcellona, a Lisbona? Ah, Madeira, Lisbona tiene un buon hotel, il Ritz, Don Pedro, ma muchos. Plaza della Conciliazione, muy bella. Mi ascolta. Sì, beh, aspetta. Attento, Pedro. Vamos a ver se ascolti qua la stazione Sparviero. Cambio. Come si chiama? Pedro, non lo so. Pedro. Come ti chiami? Cambio. Bortigale. Ermano di Lisbona. Gianno Antoni. Bortigali, attento Bortigali. Vamos a ver pa estación Sparviero. Me escucha, cambio. Se pari due. No, attento amico di Lisboa, un momentito, escucha se la estación Sparviero por ahí. No, però non so più. E capisco che grazie, non è che io lo ascolto adesso. Se non ascolta la radio Sparviero vuol dire che è caduto davvero. Ho caduto la Siria come ha visto il segnale. Comunque Pina, arrivi anche a Bortigaria. Sì, cazzo mi ha, a te ne faccio i denti. Cazzo tu. Bortigaria, cazzo Bortigaria. È Portogallo, cazzo! È arrivata una bomba, cazzo, mi hai fatto scendere lacrime, cazzo, mi ho tirato la testa nel MC 60 che ho piegato anche il microfono, la mazza che tiene l'aria. Ma questa radio è andata è uguale a Radio Bortigali. Perfetto, perfetto, e non mi ti calmare, non ti che tra i fuori che sono. Se non c'è bisogna inventarlo, cazzo. È un asiago, ma sì. Sì. Oh, Pina, come sta arrivando? Sì, è buona la radio, è buona. C'è anche l'Eco, già è accettabile. Però, sai che mi piaceva più l'altra, quella che se la faceva leggermente più piena. Quella famosa che tu hai fatto l'altro giorno. Va fa niente. E qua mi stai arrivando Santiago 7, dovrebbe corrispondere 8 9 un qualcosa del genere o Gianni. Vabbè. Avrei voluto un controllo più specifico. Guarda, se te lo do col carpa, mi tocca staccare l'antenna di qua, metterla giù. E poi no, il carpa ti tira sul segnale in quanto c'è la scala del. Voglio la macchina, un gappa. Oh, Pina, ma questo K cos'è? Quella della Ford, la K? È il 280, è la Cirrus. Ah, non lo so perché ne ha due. 280? E di gli altri anni. 140, ne ha due, no? È il gioco così, e lui c'è sempre così, 280 è la... Io invece c'ho... è un casino a so fare i conti. Sto usando il... vabbè, adesso lo faccio e poi te lo dico. Oh, guarda che sto anche 3.000, 3.000 2036 della studia che l'ho omologato. Ah, così è. No, io sto usando il 580 invece. È l'ultimo atto questo. E non lo vorrei mettere con 3036, non è così, Gianni. Allora. Claudio, quanto è il segnale? Prova. Lancio 3, 4, 5. 9, quante cose, sì? Quanto è franco? 9,60. Kappa. Non sono bene questo. Questa poi. Non passa dai punti. E stiamo in modo laterale, no, no, tu non sai che stai andando bene. Tu hai toccato anche pulsante perché non ci arriverai mai con questo segnale liscio. No, non ce l'ho pulsante. No, fa bravo. Fa bravo, io. C'è tutto segnato qua, tu registrato in automatico, tu segnale 9,40, sei 20 più, vuol dire che hai dato supplemento. Liscio come un brodo. Anche qua già, liscio come il brodo, no. So. No, no, può essere. Infatti il brodo non è liscio. Grazie. La si vede. Anche qua, su quel segnale. No, poi già non ci arriva. C'ha segnale Franco. L'unico che arriva a 60 è Franco. Lui arriva a 40. Arriva a 45, dai, modulati. Appena più alto di Lucca. Adesso sei 60 pieno, quindi non mi dire fesseria a me. Vuol dire che hai attaccato l'amplificatore. Oh, c'è la luce lì da qua, c'è un VAT. 5 watt, 6 watt. Non può aumentare già, io non stai parlando con... non puoi aumentare da 1 watt a 5 watt a 6 watt e 20 dB, ma stai scherzando, cioè a me non mi dici che invece di già. Ecco, fai la modigata, con la della col paese Bortigari, altro giorno. E no, ma non parlare di Bortigari, parla di watt, che questi non sono 6 watt. Sono 100, dai, va bene lo stesso. Beh, centinaio sì, 50, 100, vanno bene. Ma no, 6 watt, no. Non sono arrivato da Arda a piedi. Non sono di Bortigali, io sono di Sassari. Già lo so. Prova a attaccare a vedere. Prova. Attenzione, prova già, c'è i riflessi lenti, ragazzi. Prova, tengo quell'eco, fa appena. Va benissimo, sono tu medici che fa appena. Sono l'uomo cattedrale. Sembra il cugino del Papa. Cosa c'è, Pinangelo? Allora, tu fai delle cose, ma arrivate lo stesso segnale. Però non calcolare sempre se, se no, staccato. Non calcolare lo slitter, che questo non è tarato bene. Ma che cosa chi? Io e tu. Claudio, vabbè, non so che potenza stai dando, prova un attimino. Cosa ti sto arrivando io, Pina? Sì, ma il tuo segnale era Santiago 9 prima. Su questo baracchino lente. Poi l'avevo tarato, guarda, l'ho mandato in tilt, non funziona tanto bene. E comunque tu mi stai arrivando a 7, però il tuo è a 9. Ricordando che il tuo 9 c'ha anche coso. 9 c'ha anche Gianni. Probabilmente anche Claudio. Claudio, fai un passaggio. Io sono liscio nel senso che non ho niente attaccato, sto usando 30 watt di portante e 50 modulati. Roger, è appena più sotto del coso, sì, del 7, che sarebbe lo stesso 9, no, a quanto mi ricordo, però logicamente loro intanto mi stanno dando qualche cavallo in più a 100. Allora, radio, Io non ho capito quanto arrivo ancora. Ma neanche io. Questi cavalli. Cazzo c'è in mezzo, con questi cavalli, Bortigali, cazzo, non ho capito un cazzo appena. E whisky lì, anche whisky, basti. Allora, ma ce la fai a leggermi lo smitter, quanto sto arrivando adesso? Prova, ti metto con i piccetti. Ah, inizio è un problema, è lungo allora. La borsetta, che corrisponde al 9, dai. Allora 7 che corrisponde a 9, è Claudio quanto arriva? 9 che corrisponde a 7. Quanto ti sta arrivando, Walter? 9. E la stessa cosa, è così 9. E 9 sta arrivando qua. Prova tu Claudio quanto gli arrivi. Claudio più forte di me arriva ai danni, sicuramente, allora sono chiuso. Non c'entra niente. 9 stai arrivando qua. Io quanto ti sta arrivando? Quanto è Walter? Appena di meno, ma appena mio Claudio, dovreste aumentare... Sono con chi è lui? Con i fatti che sta... Matteo Giano, tutti. Sì. Anche io. Io ci ho appena 30 watt, ti ho detto, di portante 50 modulati. E ti arriva un pelino più basso di watt, va bene, ma quel cazzo di segnale che dai, 7 corrisponde a 9, 5 corrisponde a 8, cosa vuol dire? Allora, siccome ho toccato lo smitter da poco, no? Prima il tuo segnale era 9, e il segnale di batter lo stesso. Questi due segnali me li ricordo. Ma è successo, l'ho toccato, me l'ho portato a 7. Però lo devo riportare, lo devo tarare torna, o Claudio. E perché lo devo ritarare torna, scrivi. Torna a casa lì. Ascolta, adesso io sono a parità di potenza di Walter, perché tanto lo so, più o meno lui usa questa potenza qua, così, intorno ai 100 watt. Adesso quanto è il mio segnale? Più alto o è sempre uguale? Sale quel cazzo di smitter o no? Non ho capito niente, ti hanno sovramodulato qua involontariamente. Cos'hai detto Pinà? Adesso sto usando 100 watt, quanto ti sto arrivando? Allora, lo stesso segnale di coso di Walter e anche Gianni, no? Solo che appena ti si è abbassata la radio, ma una fesseria mi si è abbassata la radio, una fesseria. E io non ho toccato niente qua. Non ho toccato proprio niente, capito? Ho solo aumentato per appena 100 watt. Questi 100 possono arrivare anche, possono diventare anche molti di più, ma non ha importanza. L'importante è sapere a parità di watt se abbiamo tutti lo stesso segnale, tutto lì. Ciao Marco Scorpio. Ciao, ciao, ricordiamoci la bolletta, ricordiamoci la bolletta. Ehi, ma infatti, a parte gli scherzi, bisogna stare attento molto con le bollette in questo periodo, perché è un casino. Avanti Gianni. Avvio. Marco, come sta arrivando? Tutti bene. Ma pirati. Quadravo. Forse quando usa l'altro magari quello il K è più attendibile, boh, non lo so. Ricordo che anche io ho fatto delle variazioni e non si vedevano giù all'Alger. Va bene, ma Walter quanto arrivava Cla? Più o meno siamo tutti e tre uguali. A parità di potenza siamo tutti e tre uguali, se poi aumentiamo allora è un problema, capito? È un problema. Ma Gianni mi sta arrivando un bel forte stasera. Evidentemente ha fatto qualche operazione qui a casa, ha messo qualche foglio di giornale anche lui. Riservato e ci sono delle sorprese. Ma io non ho paura di nessuno, mi interessa le sorprese degli altri, io guardo le mie sorprese. A me va bene così. Bisogna tenere l'occhio a Walter, perché lui quando dice appunto che torcendo con 50, torcendo con 500. Quello che il naso come ce l'ha sempre, uguale. Va, rispondi, Cosa rispondo? Non può competere, è fuori quota ormai. Zitto, vedi, anche quando dice non è possibile, stiamo parlando di naso, tu sei fuori quota rispetto a lui. Sì, io sono fuori quota, assolutamente. No, nel senso che se mi giro di corpo non riesco di colpire all'occhio perché è mezzo metro più basso. Un insieme, tra il naso e il... Vabbè, lasciamo fare che non siamo in pace alla serata. I ragazzini che ascoltano magari si spaventano. E qua sarà io, Aie. Adesso inizio l'esame che ti nascondi, lo vedi a letto, a tutti lo puoi mandare a letto. Guarda, ti faccio vedere il sito di Marco, guarda, ti faccio la fotografia di Marco, ti mando a letto. Lui, no, va. Dov'è Marco? Pina. Dov'è Marco? Dimmi, lo chiami. Ecco la stessa di Marco. Guarda, adesso ho superato la soglia, diciamo, quella limite della radio. È salito o c'hai ancora questo smitter di pratica? No, adesso è quasi 9, che dovrebbe essere 9,5, un qualcosa del genere. Guarda, ti tengo la portata così, così è normale, sono a 9, quindi a 7 sono passato a 9, perciò già... Valtere più forte. Adesso te lo faccio salire ancora di più, vediamo. Guarda. Valtere più esatto. Adesso quanto è salito? Sale questo smitter tuo o rimane sempre fermo? Non ce l'hai fatta a passarla. Volevo registrare lo strumento di Pinangelo che dice che non funziona, per farle vedere che già funziona, no? Vero Pina, funziona allora. È salito 9,95, quanto è? Adesso sei a 9, quindi è 9,10, senz'altro. Ah, mister, là già funziona, è il tuo segnale che è proprio scarso. Va bene, beh. Torniamo alla normalità allora. Roger, io porca cosa, non ci posso mettere altro qua. Per passare in... Ti sei perso un verticale, Marco, poco fa, hai perso una cosa mondiale. L'hai attaccata l'antenna perché Marco? Comunque con la 48 qua già si può fare qualche prova, là. Già va bene. No, ero preoccupato, il Pinaggio con questi 7, mi sembra sempre giocando a carte, 3-7, 7, 3-7, un po' qualche 9, 9-10, già va bene, beh. Avanti già. Ciao. Pina. Aspetta. Quando uno di noi deve attaccare il K, che vogliamo i controlli giusti. Cazzo di gara, ma mi tocca fare un casino. No, fallo, devo andare in viaggio, devo uscire un attimo, volevo controllare una cosa. Mi devo assentare per un'oretta, ci sentiamo più tardi. No, la prossima volta attacchi il chiodo, così ci fai i controlli giusti. sera, già aspetta, dai. Con il tempo che gli arrivo 9 più 20 ho attaccato. Passo il piotto e lo attacco, dai. Dina, se non mi dai 9 più 20 e mi fai sprecare corrente ti uccido, eh? Perché ultima volta mi hai dato 9 più 20 quando c'era Luca e Franco lì. No, aspetta un attimo, non mi fare forse 9 più 15, con te che quanti figli mio e Claudio. No, mi hai detto 9 più 20 alla massima potenza. Siccome ora, vabbè, non sono neanche le 11, però posso darlo il terzo scatto perché non c'è niente attaccato. Se non mi dai 9.20 ti uccido, eh. Aspetta un attimino, lasciami 3 minuti che stacco qua. Un tiro a posto, lo devo passare dietro il muso, no? E vedo un po' di un tiro a posto tutto. Adesso devo fare tre luci dal controllo giusto. Ma se l'ho già fatto l'altra volta. Ho attaccato il Kenwood e si è lasciato di polo attaccato. Cazzo, attaccavo e attaccavo. Più potenza l'avevo, più mi si abbassava il segnale. Alla fine mi ha detto, oh no, sono io, c'ho il dipolo, la massa che tiene in vari. Mi stava venendo il morbo di Alzheimer. Ho detto, ma è mai possibile? 600, ne davo 500, 600, 700, 800. Un casino, niente, non saliva questo segnale. Anche lui ha polizzazione orizzontale, io non credo che non so rifarsi. Natta! Ah, te lo compri che te lo vendo. Ci viene a bottigare, Natta. A piacere, stavo facendo la prova, ma ti attacca qua che ti do un controllo giusto. Ha attaccato il 140 e ci ha lasciato il dipolo attaccato. Io provando, Pina, 100 watt, sì, va bene. 200, non cambiava, 300, non cambiava. Sono arrivato fino a 600 watt e non cambiava. E lui era polizzato orizzontale, col dipolo puntato in Corsica. E come si usa la cosa? Come si chiama? Non ho pensato, Gianni Giaguaro non mi ha bloccato, perché era così storico. Ha fatto un dipolo pure, non lo so, ma è c'è una zaga, Marca, è un piccio, Allora, Gian, cos'hai attaccato, aiuto? Nulla, non c'è niente. C'è solo le cose per Lafayette. Come le cose Lafayette? È aumentato il segnale, però qua. La potenza della Lafayette, ma c'è tre potenze. Vabbè, ma da 1 a 6 watt non è che cambia così. Oh, vabbè che sto usando l'altro, quindi può darsi ci sia una differenza di smitter da una radio all'altra, ma mi sembra un po' troppo eccessiva. Sì, 9,55. Nell'altra radio sì, 9,45. Non so. A parte che siete troppo vicini per fare una variazione così, così alta. Chi ti arriva più forte a te il segnale, io o Gianni? Gianni mi arriva a 9.10 quasi, dice 9.30. Ma siamo uno dietro l'altro, non lo so. No, io sono molto aperto per Alghero, ce l'ho davanti. Aspetta, vado sulla volantenna, già tutto pronto, cazzo, questo tempo di merda, devo piazzare X7000, devo sollevare la manto, vado a piazzare l'altro di polo. Sarebbe la volta che andare che sia a piazzare antenne. Allora Pinà. Tu che hai fatto Claudio? Allora liscio così, come l'olio, come stavo modulando prima, con 30 watt. Quanto ti sto arrivando io? Passiamo 9 è staccato, con picchi positivi. Guarda a vedere, vai Gianni, guarda a vedere quanto ti arriva Gianni. Prova appena a passare io. Sai che avete lo stesso segnale. Però non c'hai 6 watt e tu girami le balle già. E te l'ho fatto apposta. E te l'ho lasciato 30, 30 con picchi a 50. Quindi se c'hai il mio segnale, sto usando minimo 70-80 watt. Minimo. Quindi fai da bravo, vedi che ti brucio io. No, non mi scompongo, ne ho altre 700 da mettere, non c'è problema. Adesso Pinà, questa è la potenza minima, cioè questa è la radio, adesso io aumento la radio, la porto a 100 watt e quindi ti faccio un passaggio da 100 watt e poi un passaggio con l'amplificatore attaccato, ok? Quindi va bene, Claudio? Allora, aspetta, sollevo, quindi questo sono 30, eccoli qua, questi sono 80, non ti è salito solo la radio? Insomma, già va bene, il Santiago appena si è spostato, no? Si è spostato appena, Claudio, comunque la radio è sempre buona. No, non c'è problema, per la radio non ho problemi. Ma come dire, di quanto si è spostato? Da 50 a 100, quanto si è spostato? E di poco, Claudio, sarà una, qua vuoi definita, una massimo 9,3, un qualcosa del genere. Ok, 9,3, 9,5, va bene. Allora adesso guarda, quindi questo è sempre la radio a 100 watt, 80 watt modulati, dai, 90 watt modulati, non la metto mai a 100. Ok, può andare anche oltre, però finisco, non spingerla molto, e questa sale molto di più di 100. Adesso ti do un passaggio alla seconda potenza dell'amplificatore, guarda, ora se sale, ecco qua. Quanto è salito adesso così, ti dico quanti sono, orientativamente, quanto è salito il segnale questo passaggio? Quasi 9,10, quasi 9,10. E sicuro che c'è l'antenna grande, sì? Affermativo. Scusate, no, la cosa al corso l'ho fatta passare dietro. Con l'antenna grande stiamo andando, Claudio. Via, ho la stessa potenza dell'altro giorno. Cazzo, prima mi era 9,15, poi 9,20 e va 9,10. A poco mi dai 9, burro l'amplificatore. Sì, il peggio è quello di Bottigali. Già, non so cosa fare. Aspetta un attimino. Pina! Vieni avanti, qua. Guarda il mio di segnale. Allora, il tuo quasi sente, qua. E adesso quanto è? E adesso è quasi 9. Aspetta, e adesso? Stava intorno ai 9,6, 9,7, un qualcosa del genere. Da 7 a 9,7, va bene. Però con la radio sarà. È perché ce l'ho alta. No, c'è qualcosa però che non mi convince. Non da parte mia, Pina. Aspetta che per un po' accordare. C'è poco da accordare, cioè. C'è poco da accordare. Stabile su quella e boh. Pina, non so cosa dirti, calato moltissimo, Vuoi iniziare a controllarti qualche spezzone, qualche cavo e tritte e ballacche, perché ultimamente lì le ultime prove che abbiamo fatto erano 9,20, 9,15 con picchi a 9,20, adesso mi dai 9,10 con la stessa potenza, non so, l'altro puoi aumentare Gianni. No. Allora siamo lì, provo a attaccare Gianni che stacco anch'io a vedere, e metto a 5 watt a vedere quanto arriviamo tutti e due assieme. Eccoci. Già non si vede la differenza. Claudio è uno di quei booster. Yeah. E già salgono, però si vanno bene quei linearetti. Vanno bene. Allora, quanti watt c'hai adesso? Adesso 5. 5 watt. Aspetta, c'ho il coso troppo alto. Ecco qua, 5 watt. Non ho mai visto questa radio, neanche si muove. Mettiamo, in scala a 200, manco si muove a 250. Mettiamo in scala 10, ecco qua, 5 watt. Oh, Pina, quanto ti sto arrivando così io? Guarda a vedere, 5 watt. Guarda a vedere quanto ti sto arrivando. Quasi 9, non è cambiato molto il mio Claudio. Oh, cazzo, quasi 9, cosa vuol dire? 8. No, qua, aspetta il secolo, qua 9, sì, tra i 8 e 8 e mezzo, dai, 8 e mezzo, prova Gianni a vedere. Prova a vedere, fino a... E sei quasi 7. Vedi, però la differenza è lì, perché sono più avanti, ci siamo già, quindi è regolarissimo, è perfetta quella radio. Io sono più avanti di te, quindi un punto quasi e mezzo, diciamo, e poi bisogna vedere, perché lui con quel cazzo di occhiali non ci vede una minchia, quindi può darsi anche che stia prendendo il 7x8, vero Pina? Commenti, non la vedo, se vedi la spada, ti vuoi al foto. Ascolta Claudio. Non sono buttato ma qui lui. Non sei contento. No. Ascolta. Che mano via. Controlli. Non so se ti parlo non segnale. Non ho capito niente, cosa hai detto? La volta scorsa, durando il controllo con l'altro Greenwood, io ne ho due, no. Adesso mi sta venendo il dubbio che siano precisi di Twitter. Sì, Pina, sono due radio uguali, però attenzione che anche essendo due radio uguali, ora ci sia una variazione minima sullo strumento, ma impercepibile, anche perché con gli strumenti non è che sono tarati dalla casa, non è che li puoi pasticciare, capito? Non hanno nessuna regolazione. Si fa una regolazione sullo stadio di ricezione e basta, ma lo strumento non è regolabile, quindi non credo che nessuno ci abbia messo la mano dentro. Perlomeno io l'ho provato qua, con la comparazione col mio, i segnali che ricevevo con uno ricevo con l'altro, quindi sono abbastanza affidabili. Vabbè, no, era solo una prova con Gianni che volevo fare, perché io sono un po' più avanti di lui, capito? Nonostante lui è dietro, è abbastanza alto, però io sono un po' più alto e avanti a lui, quindi punto e mezzo quasi va bene a parità di potenza, già non c'è problema. E a parità di watt, 80 lui, perché se c'ha quel booster che sto pensando io ne da 80, 80 lui, 80 io, siamo uguali, chiaramente. Già va bene, ok. No, è l'accento. Cazzo, allora mi freghi 20 watt, c'è un bel, la matta di Nevaria. Certo, bella, perché ti l'ho fatto con 7 watt e mezzo l'accento. Vabbè, ma io ne ho messo 80, neanche. 30 riportante, 50 ne ho messo, 50 watt in più ci avevi tu, la matta di Nevaria. Allora è per quello che c'è il mio stesso segnale. Io ne avevo 30 riportante e 50 modulati. Quindi tu con 50 watt in più arrivi quanto è meglio, è quel segnale lì, là. È quel punto e mezzo che ti frego a parità di potenza. E con quel punto e mezzo tu praticamente recuperi 50 watt. E già è giusto, sì. Maledizione, la matematica non cambia. Già va bene. Va bene, Pinà, comunque, tieni conto, segna, il numero uno è sempre l'uomo del monte. Ok, che positivi sono, Clara. Sì, è perfetto. Sì. Sì, 55 a 60. La zona più positiva è quella di Franco, Claudio, però a parità di potenza. Parliamo sempre a parità di potenza, lui è più in alto di me, in alto, più aperto perché è leggermente più in alto, però quando io sollevo l'antenna poi facciamo le prove, vediamo poi se è potenza, dovrei arrivare quanto è lui. Solo che io mi aiuto col supplemento e quindi vi frego a tutti. Va bene, chi è che voleva entrare? È tutta la compagnia, magari voglio portare. Poi Antonio, già ci arrivi, non c'è problema. Sei 9 più 5, radio 5, perfetto. Avanti Gianni. E ciao Antonio, buonasera. Arrivi bene a Bottigare, non ti preoccupare. Appena se la gente al vato, avevo fatto un bisciappo a confermare. Scusa, ma tu vai così da Bottigare, Antonio. Quando ti arriva? Quanto ti arriva già? 9. Qua 9 e 5 arriva. Perché Agostini, la radio è favolosa, o Antonio, e lui, cosa gli ti dica? Io guarda, tra un anno e parte l'altro, avevo sentito questo, passo, consigliare, e invece a Portogallo, ma non intendo, non posso che sembrava consigliare. Siccome quella zona di nuoro, non è possibile. Guarda, così mi ascolti un po' meglio fino a... A voglia, è passato 8 e qualcosa. Ah, quindi anche io già cambia la musica. Però Claudia, mi hai deluso. Adesso salve. Saluto. Aspetta che sto preparando qualche cosa. Antonio, come ti arrivo di paese? Così sei, 9 più 10 radio 5, con un eco non molto non molto potente, cioè va bene, se lo sollevi di più diventa fastidioso, va bene, dai, no, non c'è problema. Benissimo comunque. No, stavo dicendo Claudio, prima quando faceva quella prova che ha fatto poco fa, qua arrivava molto, molto, molto, molto, dico molto più alto. No, negativo, ma magari fino a... Purtroppo causa tempo e tante altre cosucce, non ho mai potuto dedicarmi. Anzi, ho provato una volta, stavo anche studiacchiando, però non sono mai andato a dare esami e niente. Grazie, però guarda, è stato bene, anch'io, e anch'io sono qua, sono rimasto ispirato a un tizio della frequenza. No, ce l'ha scritto. Ciao, anche io, Antonio. Ok, Claudio, fa te. Ehi, ehi, vabbè, io vi saluto perché è tardi, sono la nanna. Ciao Antonello, ciao Gianni, piacere aver fatto due chiacchiere, ciao Pinangelo, Walter, se ancora l'ascolto, Marco Scorpio, Natalino, chiunque ci fosse qua sul canale 10, dai, non è passo in QRT. Ci sentiamo domani, signori, statemi bene, buonanotte a tutti. Ciao, ciao, vai Gianni. Ciao, buonanotte. Avanti, avanti. Ehi, ciao, Claudio, buonanotte e buon riposo. Comunque fai qualcosa, sistema, Pier, perché mi hai deluso poco fa. Perché, Antonio? Quando è stato quel passaggetto, qua si è passato da 9.5 a quasi 9.20. Considera però che quando facevi quel passaggio lì, qua, se non mi ricordo male, nei 20.20, mi andavi intorno al 9.40 e oltre anche. Antonè, ma tu sei rimasto indietro, io non abito più a Carbonazzi, eh. Io abito in via Pascoli, sono al Monte Basso, caro mio. Ah, ecco perché c'era qualcosa non quadrato. E quindi da 9 a 9.20 devi anche elogiare, perché se tu sei nella zona in cui io sono, mi sto difendendo alla grande, ho perso molto, molto poco. Lo posso garantire. Chiaro che essendo uno di fronte all'altro facevo da 9 a 9.40, come ad Alghero arrivavo a 9.30 liscio, e adesso purtroppo non posso più farlo, però con l'aiuto sempre del supplemento riesco ancora a difendermi bene, non ci sono problemi Antonè. Non abito più a Carbonazzi, io abito via Pascoli. Claudio, nella mia stazione la danno 9.40 e 2. A Carbonazzi non si scherza, però. Diciamo che qua, Antonè, c'è una differenza molto, molto logica. E da qua ascolto tutti, bassi ma li ascolto. Avevo dei grossi problemi da Carbonazzi sulla parte, per dire, della Gallura, verso Santa Teresa, verso Terigo, Burti, Nurvi, quelle zone lì. Adesso ricevo benissimo e trasmetto benissimo, cosa che invece prima... Sì, arrivavo ma molto più basso, quindi qua ascolto tutti e tutti mi ascoltano, di là mi ascoltavano praticamente una parte della Sardegna, qua mi ascoltavano tutti, non c'è problema. Non è che i segnali sono più bassi, però va bene lo stesso Antonè. C'era qualcosa che non andava, no? Quindi conviene che da 9 a 9.20 per itiri qua la via Pascoli è più che sufficiente, no? Perché ho provato che ho fatto, te l'ho detto, mi chiama giù e non ce l'ho fatta, non vuol dire che rimane lì. Antonio, purtroppo si cambia nella vita, ho fatto un affare che per il momento va bene così, poi vediamo nell'arco dell'anno se per ritornare su, lì ce l'ho sempre l'appartamento, quindi c'è l'antenna, c'è tutto, però ho fatto preso la decisione in famiglia e per il momento va bene così, si vedrà. D'accordo, dai, non ci sono problemi. Tieni anche conto che l'antenna è molto bassa perché da quando mi sono trasferito l'avevo messa così solo con due elementi di palo e l'ho lasciata stare perché non avevo nessuna intenzione, ma adesso che mi sono stabilito bene ho gli altri due elementi e dovrò sollevarla almeno di altri 4 metri e naturalmente cambia nuovamente il cavo, purtroppo devo cambiarlo perché è corto. Va bene, ti saluto Antonè, tante cose belle, dai, il microfono per Gianni e nuovamente. No, Pina, già ci sentiamo alle prossimine, dai che è tardi. A te Gianni. Ciao Marco, ti ha rilanciato Pinangelo, buonanotte a tutti. Non lo sento Pinangelo, non so se lui mi sente, è che adesso ho spento il satellite e giù ad Alghero magari non arrivo, ma ormai è tardi, sono tutti a dormire, non mi possono accendere il satellite per traslarmi. Va bene, ma anche quel muflone è andato a dormire. C'era la fruita al naso, ho detto. E allora rimane sveglio sino a tardi, perché appena finito di grattarlo stanno lì, sì. Ciao Ca, comunque, buonanotte, buona giornata per domani. Ciao Fra, scusami, che tu sei sempre in quell'X e a volte mi dimentico che ci sei. Ciao Fra, un abbraccio, ci sentiamo domani, ciao ciao. Ciao Franco, ciao Franco, buonasera, ben sentito. Marco, punti. Beh allora, siamo qua, ha suonato il cucù e la campana dell'ultimo giro e adesso non so, siamo sul plus. Vediamo chi è che scatta, non lo so. Ma come si in macchina già quello piccolino? Può venire a sì. I telefoni accesi. Anche la macchina l'hai presa. Claudio, adesso mi metto sotto casa, anche se c'è quello che c'è già. Motore, glielo riaccendo. Ah, quello è venduto. Sotto. E uno, diamo due. Ah, è vero, scusa, sì. Ciao a tutti, Marco lì, ci sentiamo domani, ciao. Perché mi sta sovramodulando? La torre di controllo, no, stavo dicendo una cosa a Gianni. Ah, e ce la facevi a sovramodulare? Beh, penso proprio di sì. Sono qua, magari sono vicino a casa di Gianni. Ma è una potenza qua, c'è la segnale di Franco, eh. All'ennesima potenza. Ascolta, perciò come pupillo ti ha salutato, sì, te l'ha dato un bacino alla licciatina così, sui capelli, il bacino della buonanotte, quel gufo. Domani c'ho la colazione pagata io. Colazione, pranzo, di tutto. Oramai, è lo più vero, solo per te. Guarda che non ha detto niente di negativo, ha detto solo che la mia radio in banda laterale è in 27, è la migliore in assoluto, e questa non è una buccia di gioia, lo sappiamo tutti, no? È così. Ma figurati, ma scherzi, dire un complimento così, e poi che cos'altro ti ha detto? Qualche altra leccornia te l'ha avviata? Non so, perché tu dubiti che sia falso? Boh, non lo so. No. Così, guarda, che così. C'era sotto, ignato, con quella faccia da 36 pollici, che altro. Non sei altro. Va bene, vai, non ti trattengo, se domani devi stare a lavorare. Ciao Fra, buonanotte. A domani, ma ti do un pensiero alla buonanotte. Ho provato un microfono stasera, mamma mia, roba strepitosa. Ma tu la prova devi fare con me in fonia, non è che devi dire strepitosa. quando io ti sento i corrispondenti dicono sì, la radio di Marco Scorpio è meglio di quella di Claudio Sparviero, allora io mi tolgo il cappello e vuol dire compro il microfono uguale al tuo. Ho il cappello te lo lasci, cosa te ne frega? Ti passo il garuto di Nafuti, il cappello lascio te lo fare, ti ho preso. È bellissimo. Questo esperimento che sto facendo con la dottora Chimene. Io mi sono comprato la radio, già l'hai vista, già pronta, perché non voglio assolutamente avere tutti questi esperimenti fatti e contraffatti. A me piace la radio, cioè in macchina, è un Midland omologato con il suo microfono originale, che però il culettino al grillo e al merlo glielo fa sentire, anche lo Sparviero. Già va bene così, per la macchina è più che sufficiente, in attesa che si possa fare ancora di meglio, ancora di meglio. A casa non ho dubbi avversari, no, non mi creo problemi, quindi vedete voi, quando volete fare qualche prova, fammi sentire tu e poi io ti dirò se è come stai dicendo tu. Per il momento non ho ancora sentito niente. Per il momento posso dire che tra quelli che usano i microfoni preamplificati con l'eco, di quelli che ho ascoltato, vanno bene per la mia categoria delle orecchie e quella di Gianni. Gli altri per me sono troppo alte, troppo mega galattiche e così via. Non sto leccando nessuno, sto solo dicendo la verità. E va bene. Beh, qua bisogna provare a cimentarsi. Adesso stiamo vedendo, ma spero a breve questo lavoro sia pronto e per testarlo col mio FM340S da R con la testata abbassata. Ecco scheda ecco by è un microfono dai ce l'ho basta. Vabbè, ma t'ho detto così, in chiusura per anticipare, magari vediamo, già stasera abbiamo fatto un po' di setup, dobbiamo proseguire i lavori e vediamo insomma come si comporta. Poi al momento ti chiamo in privé per fare la verifica. Ma sento che ultimamente sono già molteplici le stazioni barrato mobile che si stanno attivando per essere performanti. Prima ero io e pochi altri, adesso invece vedo che c'è fermento. Vedrai che a breve qualcun altro esordisce con qualcosa di sorprendente. Insomma, era avvenuto come mai anche Shushu non si sia espresso a altissimi livelli in questa banda. È rimasto un po' così in semitono, ma magari si farà risentire con qualcosa di più accattivante. Non lo so Marco, io so solo che in macchina già hai visto il mio lavoro, a me va bene così, va bene ne avanza, poi oramai abbiamo preso la mania di lecca e quindi stiamo leccando un po' tutti, c'è chi lecca zucchero filato, c'è chi lecca invece altre cose, io ho quella radio, te l'ho fatta vedere, va bene, l'ho pagata un pacco di soldi e il lavoro già l'hai visto come l'ho fatto, alla grande come mi ha insegnato qualcuno. Va bene, vi saluto, l'aria sta coricando, me ne va all'altra stanza. Ci sentiamo, buonanotte a tutti. Gianni, a te il microfono. Ciao, buonanotte. Saluto tutti i componenti. Allora Marco, questo microfono, lo state autocostruendo oppure è un microfono che state elaborando? No, stiamo partendo da un lavoro, da tutto un insieme di cose che... È un microfono con l'eco già. Sta mettendo alla prova. E allora, niente, ancora, finché non è operativo, abbiamo fatto un po' di prove oggi con questo circuitino, ma... Sai che microfono è? Una favola, veramente. L'MB più 9. Che a breve si... Quello c'era già di sì. Esatto, e... Appunto. Vedremo un po'. perché ovviamente lui lo sta provando su un HF, capito? Ciao. Da mettere a punto. Tu esci bene, anche Gianni comunque alle volte esce bene, alle volte meno bene, però mi è rimasto, ma comunque si fa sentire anche lui. C'è anche Franco, Franco California, che lo stesso si è attrezzato. No, vabbè, bisogna provare, no? Più cose si fanno, più cose si acquisiscono, sulle antenne, per esempio, vedi, tira e ti ritira, si fanno prove, eccetera. In carta questa che ho tra le antenne 30 comprate, questa è quella che ha dato nel rapporto dimensioni, prestazioni, tenuta potenza e migliori risultati, e niente, poi si mette a correre, insomma, capito, per tutti. Che è uguale alla mia. Ma comunque, cioè, questo apparato qua, questo qui, da quando l'ho comprato ho dato una soddisfazione, perché va benissimo come va, ma solo che non li trovo un microfono adatto a lui. Non spingeva con gli altri microfoni, ho provato questo, ha dato dei buoni risultati. Mi dispiace solo che non va bene la terra, perché non va bene sia l'altro giorno. Se non so se gli abbia fatto male come l'ha attaccata la praticata, poi se no non andrebbe neanche qua va benissimo. È strada. Non so, qua va bene, non mi sento perché c'è anche il parlascolo. Marco, ma adesso stai usando l'antenna uguale a quella che hai visto stamattina, uguale alla mia? E allora chi è che l'ha comprata per primo questa antenna? Vanno molto bene quelle antenne. Sai esattamente che potenza tiene per quell'affare che c'ho in macchina? Certo che lo so, 300 in AM. E allora già va bene, siamo nella media, dai. Ok, di nuovo, ciao, buonanotte a tutti. Altro 380. 380 è quella... di cantiere, è quella per abitazione. 300, l'antenna è quella lì, vabbè, io trovate, ne ho provato in tutti i tipi. Questa, per le dimensioni, io ne ero 280 già. La bobina ha una carica distribuita e il filo è consistente, perciò anche se viaggi carico, tiene, scalda, ovviamente, perché è normale che scalda, ma tiene, soprattutto riceve, è buona, diciamo che è un buon compromesso, perché non è troppo lunga, la parte terminale è vicino di rame, tra l'altro consente di fare strada proprio a zero, e le stazionarie, le percorsi veramente a 1-1, nella banda che ti interessa. Va bene, ma io ci ho fatto anche DX in 10 metri, ho fatto DX europei alla grande, sempre dalla macchina. Sì, va bene, dai, concludo. No, la mia è così, da quando l'ho presa ho provato, almeno io la uso solo col baracchino, è 1-1 di stazionali e da tutte le parti. Non ho neanche talata, è perfetta. No, beh, già io uso la quarta che ne va intorno ai 2,30, 2,40, quindi è più che sufficiente. Vabbè. Sì, anche a me infatti ho notato che scalda un po' sotto, appena più su del mollone, Marco, però mi hanno detto che è normale infatti. Ho un'ottima antenna quella, è un'ottima ricezione veramente. Sono azzeccata alla grande. Ok, dai. A tutti signori, buonanotte, ci sentiamo, non riprendo più. Vai Gianni. Ciao, quella è quella che c'è tu. Sì, e un giorno ti faccio vedere qualcosa di strepitoso. Quella la mia è? Ma reminiscenze di 30 anni fa. Io ancora e uso, che poi l'ho modificata, la frusta nera, ma la versione originale americana, che era composta da due stili che si abitavano insieme, diventa un filo da 2,70 da montare in macchina. Si montava su una base a mollone, che non quella sfortunatamente non ce l'ho più, e ho lo stilo da 2,70 che uso ancora che usavo per quando mi capitava così di andare in giro in macchina, e lo porto sempre nei kit delle varie antenne per fare i collegamenti di Exxon, ma è una cosa bestiale. Due elementi, frusta nera, proprio la frusta nera, la vecchia frusta nera americana, si chiama frusta nera perché realmente è una fibra di vetro molto flessibile con una frutta, perché 2,70 m diventa una cosa che è veramente una frutta. E poi ho invece quell'altra che dopo anni avevano fatto, non mi ricordo che azienda, in Italia, che avevamo chiamato frutta nera perché assomigliava a quell'altra che è originale, frutta nera, però è più corta perché sarà 1,80 m forse, 1,70 m, ma sempre perciò una bella antenna lunga e alla molla, un po' più piccola di quella che aveva la frutta nera originale. E ho anche quella, e sono tutte e due delle antenne micidiali, no, tra l'altro la frusta nera non c'è problema di potenza perché c'ha un'anima piena dentro e può tenere anche 1 kW, 2 kW, non ci sono problemi. L'altra, quella un po' più piccola, invece è un'antenna accorciata, è un quarto d'ora accorciata e comunque teneva, mi pare, roba di 800 watt, 1 kW. Ce le ho sempre, qualche giorno le faccio vedere, le ho lasciate in ufficio in quest'ultimo periodo quando avevo scaricato la macchina, tutte le varie cose, non le ho più rimessa, ma te le farò sentire, magari qualche giorno facciamo qualche prova, quando sono in giro facciamo qualche collegamento con quelle antenne. Va bene, ci sentiamo, dai, ciao ciao, buonanotte, alle prossime, saluto anche a Gianni, a tutti gli amici in ascolto, e anche io me ne sono arrivato a casa, me ne passo in URT. Ciao Marco, ci sentiamo alle prossime. Ascolta, a quale ti piace di più di modulazione? Quella col K o questa o Gianni? Tutte e due quelle, via. Col K si sente che è una cosa più professionale, ma è bello anche questo. Questa che piglia tutte le amplificazioni di casa, no? Questa può essere regolata, migliorata, insomma, perché questa è equalizzata. No, non so se ti sei accorto, perlomeno, può andare, io voglio migliorare del casa, no? Con questo apparato. Via un attimo. Si viene avanti, io, Marco. Aspetta, dimmi un po' con che segnale arrivo lì ad Alghero. Ma adesso che si è abbassato parecchio, c'è un segnale di due, la radio anche abbassata. Non ci hanno fatto niente, Pina, sono sempre così, sono fermo da 5 minuti. Sempre fermo sono, Pina. No, poc'anzi ti ascoltavo meglio, ma è più alto di Marco di voce. E, perlomeno, non so se sarà questione di alimentazione. No, non credo, l'alimentazione qua, sono in macchina qui, questa non ha problemi di tensione. E poi c'ho il controllo dei volt, perciò, no, vabbè, magari è così. 13,9, 13,8, 13,9, adesso quando ce l'ho appena addirittura lo porta a 14. Va bene, ciao Piangelo, ciao a tutti, allora buonanotte, alle prossime, Marco Scorpio, QRT, CB Band. Ciao, ciao, mamma. Ci sentiamo, a te Gianni. Sì, appena, visto che siamo sui, proviamo a andare in banda laterale a vedere in 80 come va. No, in 80, no, in 80, 88 posso andare. L'80. No, non ho capito. In USB, sul canale 10, prova. No, adesso no, non ci posso andare, guarda, devo rimettere l'antenna giù, vado a passare di pili in banda. La banda laterale, ascolti, posso ascoltare comunque. Tu puoi ascoltare? Vabbè, allora ascolta. Sì, aspetta un attimino, lo dico io, lì. Aspetta un attimino che... Prima diamo l'ok a cosa, Antonello ancora ci sei? Sì, capo, sono sempre qui all'ascolto. Ma vi chiedo, solo se mi controllino, poi ti ascolto anche io già. Volevo vedere, se la mi ascolti con questa modulazione finalmente? È buona lo stesso, è buona, però il segnale mi sa che fosse più basso, che è un po' più basso, Antonello. Sì, perché ho diminuito un pochino la potenza. Guarda così un attimino, fino a mi ascolti meglio. Sì, sì, è cambiato, molto meglio, Anthony. Sì, sì, dai, sto tirando qualche grattino in più. Paolo, l'alimentatore non me lo permette di farlo molto così. Io stavo tutto in stand-by, sto rimettendo tutto a posto, suona piano. Aspettiamo. Proviamo a vedere, perché meno che stanno andando bene oggi si più sta radio. Aspetta, che sotto Antonello che non ho salutato. Ciao Antonè, ero in quel Rix. Chi era? Franco. Ciao, fra. Buonasera. Sto saltò, sento il bene. Non so se l'ho ascoltato, che sono un attimino distratto, poi cazzo, sto cercando un pezzo di KIA 72 di 7 PS, se non è questa parata invece non ce n'è. Ecco, da finito ho trovato il vecchio equalizzatore, un po' di schiaffo. Questo è questo, 7205. Ecco, pronto, me lo schiaffo, c'è 10 piedi, lo stesso. E l'ha fatto, credo che siamo in destra. Occhio. Ma già, fai la prova, va. Guarda a vedere Pina, va a vedere come sto uscendo. Forse dovresti eliminare l'eco, non lo puoi eliminare del tutto, vero? Aspetta. No, centrato si è centrato già, però effettivamente quel microfono in banda fa casino. No, ha peggiorato, confermatore. Sì, è proprio la modulazione che tende un pochino, non lo so, come a saturare, non lo so, aspetta, è proprio passare una cosettina qua, gli chiudo un attimo il segnale, voglio vedere, prova a farmi un passaggio adesso già. 1, 2, 3, guarda adesso come va. No, guarda, sai cos'è? Allora, con l'eco la modulazione rimane molto confusa, perché tra i picchi e il rimbalzo dell'eco diventa un po' un mezzo putiferio, però così eliminando l'eco, cioè la modulazione è più comprensibile, però tende come a saturare, non lo so, ti sento strano, eppure ti sei entrato. Sempre distorto già, cioè la modulazione è molto compressa, cioè tende, quasi posso dire, neanche l'effetto di uno straccio in bocca, c'è proprio una sorta di saturazione, è presente quando tiri uno di quei boosterini, di quelli piccolini a 30 watt che si usavano prima, e andava in saturazione quando lo sovrappilottavi, rimane molto, molto satura la modulazione già. Guarda bene. Già, tendi a portarti dietro questa specie di saturazione, ma non è che hai qualche problema di alimentazione, no? Io non voglio tirare ipotesi affrettate, cioè hai provato a cambiare microfono, magari provare con un altro, ah no vabbè, ma l'hai cambiato adesso, ed è della stessa identica cosa. Non lo so, ti ascolto, non ti ascolto bene, già, la verità. E poi anche l'altro, ti metto di colpo, prima uno e poi l'altro. Sì, sì, sei sempre molto, molto sacro. Poi ho provato a centrarti, a spostarti, a farti, no... rimane sempre così, è proprio un problema di modulazione, perché il segnale è più che ottimo, lo scendi dal 7 al 9.10. Finangelo, confermi. Pina, metti l'antenna, perché intanto siamo qua al 27, mi ha. Non so cosa pensare. Il colpo l'ha fatto, l'ho fatto anche con la rapparita, la fa ieri. Il colleco si sente più pulita la modulazione, però si confonde con l'eco. Ma non è che invece è proprio un problema dell'eco, c'è un dubbio così, cioè tirare ipotesi, giustamente, si può, niente di sicuro, di certo, non voglio, dico, metto le mani avanti, però si sente con l'eco, la modulazione è molto più pulita, però rimane troppo camuffata dalla ripetizione dell'eco. Confermi, infatti. Non mi sentite. Ah, fai un passaggio più lungo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Così mi sembra che fa un po' meglio, Però fammi un passaggio più lungo, che provo a centrarsi un attimino. Prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, va notevolmente meglio già. È un po' spostato. Sì, guarda, io ti ascolto, 74 e 95. Ecco. È un po' spostato, secondo me, perché se va bene così la modulazione. Sì, no, aspetta, attenzione, però già non fraintende, cioè la modulazione va bene, ti ripeto, è comprensibile, però non è pulita, capito? Non è... tende sempre ad avere una sorta di gracchiolio di sottofondo, cioè in AM è notevolmente meglio, dovrebbe essere l'opposto. Lo so, qua sono spostato ancora, guarda vedere. Sì, no, ti ascolto bene, però ti ripeto, tende sempre a saturare un pochino, non ho idea da cosa possa essere, non so se è un problema mio, però se ti ripeto, gli altri li ascolto bene. Confermo, no già è proprio, è come che anche se tu abbassi l'eco, quel leggero eco che tu ti porti appresso tende a portarti la radio in saturazione, ma saturazione totale però. Ehi, ma cambiando il microfono dovrebbe fare, invece lo fa lo stesso. No. È sempre che c'è sempre questo sottofondo di eco che ti mangia. Ascolta, io adesso, guarda, la verità già, non mi ricordo adesso che microfono era, che dava quel problema lì, guarda, non voglio dire fesserie, forse era l'F24 dell'Alan che io avevo un sacco di tempo fa, e mi dava proprio quel problema lì, che dovevo tenere sempre l'eco leggermente a minimo. Ed era un problema che mi dava quando io avevo collegato l'alimentazione direttamente dall'apparato. Con la batteria nessun problema, anche se rimaneva sempre presente l'eco, era a posto. Quando ho dato l'alimentazione all'apparato si portava dietro questa sorta di alternata di cose, mi rovinava la modulazione e l'avevo escluso completamente, cioè proprio preso e tagliati i fili, escluso questo di là, ho messo un interruttore e senza l'eco, guarda che era cambiato radicalmente. Guarda adesso c'è il microfono normale, guarda com'è adesso. Secondo me va molto meglio così. Già, per me è uguale. Non è un problema di microfono. Questo è normale il microfono. È il microfono originale suo? No, è dinamico, no, è della Cobra questo qui. No, già vedi che pensa, c'ha la capsula. Non è detto che vada bene. offerte posso anche rigirare, però l'impedenza ohmica della capsula potrebbe anche variare dall'originale. No, sai, sto andando benissimo più a mandare a stare, perché abbiamo provato in un clavio, quando mi sono arrivati, c'era una giornata, ne ho provate tutti e due, fanno lo stesso difetto, se ho provato la stessa cosa. Oh, eppure mi sembra strano a me. Stavo parlando, c'è un po' di là. Non posso essere, se mette un paio di mutande dentro il microfono. Ma sai come ho fatto adesso? Ma poi quello che non riesco a capire, Antonio, se prima stavo funzionando, ho capito, adesso ora l'hai preso. Non lo so, però se notti. Ma curiosità, Oggia, ma le stazionarie come ce le hai? Io? Nemmeno si muove da uno, quasi non si muove. Boh, che strano, c'è un problema di saturazione, questo lo potrebbe dare anche quello stazionale, però torniamo sempre a quel discorso, se lo dovrebbe fare anche leggermente in AM, con questo minimo di saturazione quando le stazionali molto alte. Prova, ma non riesco proprio a capire, perché è molto, molto spazio e compressa, adesso anche col microfono dinamico. Il primo passaggio però andava già meglio, però mano a mano le moduli tende sempre a saturare maggiormente.